Ma sì, si può sempre dire che si tratta di una notizia annunciata e quindi già vecchia nel momento in cui viene formalizzata, così vanno le cose sui mercati, ma effettivamente il paradosso c'è. Io direi due cose su questo. È che i 30 miliardi subito servono per le urgenze e questo è un fatto positivo. Per una volta l'Eurogruppo si è mosso con una visione prospettica. Però è anche vero il fatto che l'intervento per le banche spagnole è piuttosto lungo, si saprà soltanto a settembre, fine agosto, metà settembre. Quale sarà l'effettivo bisogno di capitale delle banche? E i piani di ristrutturazione dovranno essere pronti un mese dopo, insomma, è un processo lento, ma così vanno le cose. Seconda considerazione è il meccanismo antispread per frenare i tassi di interesse per paesi Spagna, ma soprattutto anche Italia ci riguarda direttamente. Il punto è, si è capito che può essere usato il fondo anticrisi europeo, ma se questo fosse davvero usato, avrebbe i fondi sufficienti? E questo ancora è l'eterno punto interrogativo.